Siamo con Adolfo Braga, docente del corso di laurea in turismo culturale, per parlare di educazione ambientale. Ma innanzitutto, cosa si intende esattamente per educazione ambientale e quanto può influenzare il futuro del nostro pianeta? L'educazione ambientale credo sia il veicolo attraverso cui sensibilizzare i temi dell'ambiente, temi assolutamente prioritari. Per poter, come dire, diffondere l'urgenza di questo problema, non si può che ricorrere all'educazione ambientale. Quali sono le difficoltà che si incontrano promuovendo l'educazione ambientale? La situazione di partenza è una ignoranza diffusa tra le diverse generazioni. Io uso spesso con i miei studenti riferimento a quelli della mia generazione, che ipoteticamente sono anche i genitori di questi ragazzi, e agli stessi ragazzi. È evidente che laddove nelle famiglie c'è un minimo di attenzione e di sensibilità, anche i ragazzi sono in qualche modo avvertiti. Nelle mie dinamiche nell'aula sento che i ragazzi non hanno nessuna sensibilità, perché a monte il problema, cioè non c'è nessuna attenzione di quelli della mia generazione verso queste tematiche. Spesso si ha anche difficoltà un po' a credere alla gravità di problemi ambientali legati ai comportamenti quotidiani. Sì, perché non si ha la consapevolezza del problema. Io uso sempre cominciare il mio ciclo di lezioni con alcuni filmati, tra cui The Day After. All'inizio poi i ragazzi lo vivono con una "no, impossibile, è fantascienza". Poi concludo invece con l'ultimo ciclo di conferenze di Al Gore sui temi dell'ambiente. E guardate, questo film era stato immaginato in una situazione in cui, come dire, si lavora un po' di fantasia, alcuni scienziati che erano in qualche modo presi per pazzi, e invece oggi, certo, sono situazioni contestabili anche sul piano scientifico, però il problema per i ragazzi non è la coerenza di questa o quell'altra interpretazione. In mezzo ci mettiamo quello che deve essere il linguaggio minimo di conoscenza, appunto i temi dell'educazione ambientale. Cos'è il turismo sostenibile? Quanto può aiutare lo sviluppo di un territorio? Bene, ai ragazzi dico che si può parlare di sviluppo del turismo solo se oggi il turismo, come ovvio che sia, faccia i conti con i temi della sostenibilità. La sostenibilità è quel concetto oramai acclarato da tutti, e cosa faccio per pensare alle generazioni future. È evidente che nella misura in cui il turismo diventa economicamente una risorsa fondamentale nel prodotto interno lordo, nella misura in cui è l'ambiente la base principale per il turismo sostenibile è tutte quelle accortezze, tutte quelle decisioni dei decisori pubblici affinché si tuteli, si accarezzi l'ambiente in modo che il turismo possa continuare nel tempo. È evidente anche qui che c'è un problema di educazione ambientale. Quando io dico ai ragazzi: avete mai notato negli alberghi, e alcuni di loro pure ci lavorano, piccole cose, quelle piccole comunicazioni in cui si dice: se ritieni che il tuo asciugamano sia ancora pulito, ti prego appendilo, se ritieni che sia sporco, perché è evidente, no? È tutto ciò che attiene a consumo di prodotti, fino ad arrivare a soluzioni oggi molto illuminate in cui non si usano per nulla i detersivi negli alberghi e si sterilizzano le posate, tutti questi oggetti che servono per il turismo, con moderni meccanismi di forte sterilizzazione senza l'utilizzo di nessun detersivo. Bene, turismo sostenibile quindi non solo da un punto di vista però dell'offerta, ma anche come regole di vita per il turista. Potrebbe darci qualche regola imprescindibile? Il turista deve sapere innanzitutto che, come dire, c'è un'attenzione verso il luogo che visita. Per fare questo ci vuole un incontro reciproco tra coloro che abitano negli ambienti turistici e coloro che entrano a visitare gli ambienti turistici. C'è, come quella che noi chiamiamo, una sostenibilità culturale attorno a questi temi. Il turista deve sapere che il luogo che visita è pieno di storia, che lì ci vivono delle persone e che quelle persone devono avere da parte loro la cultura dell'accoglienza, ma il turista deve anche sapere che deve avere la cultura del rispetto del luogo che visita. È evidente da questo punto di vista, senza voler demonizzare, che noi che ci occupiamo di turismo siamo un po' fortemente scettici verso quelle forme di turismo di massa, ma non perché non vogliamo che il turismo sia esteso. Immagina questa scena: un bel paesino medievale, ti arriva un torpedone pieno di turisti, la prima cosa che fanno: lasciano i segni della globalizzazione. Ecco, questo è ciò che il turista non deve fare. Entra in un luogo e deve entrare in sintonia con quel luogo, e quindi nella carta del del turista, cosa che l'Organizzazione Mondiale del Turismo ha messo quello che deve essere un po' la dimensione etica del turismo. Anche lì va assolutamente educato, va educato a tutti i livelli. I tour operator devono sapere che evidentemente se porti dei turisti in ambienti protetti devi fare un'opera preventiva da questo punto di vista. È un lavoro complesso, però io credo che siccome turismo sostenibile vuol dire tutela dell'ambiente e la tutela dell'ambiente è una dimensione più ampia, allora il turismo sostenibile deve assolutamente fare i conti con tutte quelle che sono le dinamiche di protezione dell'ambiente. Potremmo concludere dicendo che turismo sostenibile è allontanarsi dal posto di vacanza senza lasciare alcuna traccia del proprio passaggio? Assolutamente sì, concordo totalmente con questa, però per fare questo evidentemente ci vuole una rivisitazione culturale del proprio modo di immaginare il turismo.